الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا إنه قانون دولي يا قانون. Buongiorno Palestina, 116esima trasmissione su Radio Wombat. Il governo israeliano implode su se stesso? Imponenti le manifestazioni di piazza e ondate di protesta a cui assistiamo in questi giorni, diffuse ampiamente anche sui mainstream nazionali, in cui Israele si inneggia alla perdita della democrazia se la riforma giudiziaria voluta da Netanyahu sarà applicata. Ci chiediamo che ricaduta hanno questi eventi sulla vita dei palestinesi? I palestinesi sono del tutto esclusi dal dibattito e dalle manifestazioni, eppure sarebbero anche i primi a trarre le conseguenze di questa riforma, in quanto in Cisgiordania, nelle zone B e C, fino ad oggi potevano far ricorso, seppure con poco successo, alla Corte Suprema israeliana. Ma da domani? Il nuovo governo di estrema destra, voluto da Netanyahu per salvare se stesso ed evitare incriminazioni o la caduta del governo stesso, sembra solo inasprire i rapporti con la destra di Ben-Gvir, che in cambio di un'eventuale sospensione della cosiddetta riforma giudiziaria, chiede poteri extragiudiziali con la formazione di una polizia privata che certamente userà il pugno di ferro più di quanto non faccia adesso l'IDF nei confronti della popolazione palestinese. L'indebolimento dell'indipendenza della Corte offre maggiori poteri alla Knesset e la possibilità di rivedere leggi fondamentali che in Israele sostituiscono la Costituzione che gli israeliani non si sono mai dati. E allora c'è da chiedersi: qual è la presunta democrazia israeliana a cui tanti paesi occidentali guardano e si ispirano? Giuridicamente Israele è una democrazia formale e non sostanziale. Una democrazia che non include le minoranze e anzi le discrimina può essere considerata democrazia? Per il governo di Israele parlare di Stato ebraico e democratico è una contraddizione. In questa trasmissione di oggi ripartiamo dalle origini, ascoltando Enrico Bartolomei, professore all'Università di Macerata, che ci spiega come nasce il colonialismo di insediamento da cui discende anche lo Stato ebraico di Israele. Enrico Bartolomei è intervenuto in un convegno organizzato da Amicizia Italo-Palestinese ad Empoli alla fine del 2022. Ascolteremo quindi il suo intervento e un'intervista che ci ha rilasciato in quell'occasione. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela, rassegna stampa che in questa trasmissione sarà divisa in due parti separate da un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo la rassegna stampa di oggi con una panoramica sulle proteste in Israele delle ultime settimane contro la riforma del sistema giudiziario attraverso gli articoli di vari analisti. Quello che emerge da tutti gli articoli è la constatazione dell'esclusione della questione palestinese da questo movimento antigovernativo. Ed è infatti questo il punto, come viene giustamente sottolineato da Gideon Levy nell'articolo «Gli israeliani sanno che la vera democrazia segnerebbe la fine del sionismo», pubblicato da Assopace Palestina. Quelle in atto in Israele, infatti, non sono proteste per la democrazia, perché se così fosse, si dovrebbero riconoscere pari diritti a tutti i residenti dello Stato, quindi anche ai palestinesi, e ciò comporterebbe la fine del suprematismo ebraico. Ma gli israeliani non vogliono certo questo. La riforma della giustizia di cui si parla sarebbe un faro di giustizia mondiale in confronto ai tribunali militari al cui giudizio vengono sottoposti i palestinesi. Ma questo purtroppo non rientra nella discussione della riforma. Quello che vuole sottolineare Gideon Levy è che chi protesta lo fa perché sta combattendo per un governo migliore di quello attuale ed è legittimo. Ma dovrebbe combattere anche per uno Stato democratico, perché Israele non lo è. Nell'articolo di Jonathan Cook, dal titolo Netanyahu non ha cercato di distruggere la democrazia israeliana, né ha ampiamente sfruttato la mancanza, pubblicato da Contropiano, l'autore ribadisce lo stesso concetto spiegato da Gideon Levy, smontando la definizione che viene data da più parti sulle proteste come battaglie per salvare la democrazia e lo Stato di diritto israeliano. Quando, se fosse così, sarebbero scesi in piazza anche i palestinesi. Ma le proteste non abbracciano alcuna concezione di uguaglianza e riconoscimento dei diritti nei loro confronti. È proprio in virtù del fatto che in Israele non esiste una Costituzione e che il sistema politico non preveda controlli e contrappesi che Netanyahu si trovi nella condizione di indebolire la magistratura. Fino ad ora, l'unico organo che poteva e può timidamente contrapporsi a questa tirannia è proprio la Corte Suprema, che lui vuole riformare. Più volte si è sentito dire che la riforma giudiziaria che Netanyahu vuole portare avanti sia il tentativo di sottrarsi al giudizio, essendo lui accusato di corruzione. In realtà non è così, o comunque c'è molto di più. La Corte Suprema, come abbiamo detto, è l'unico organo che può porre qualche freno, soprattutto alla destra fascista e razzista, rappresentata dal movimento dei coloni che vorrebbero, ad esempio, mettere al bando quei pochi partiti arabi che si candidano al Parlamento. Lo scontro in atto non è per la democrazia, ma per la ridefinizione del potere che vede da una parte una banda di teppisti religiosi di strada, quali sono i coloni, capeggiati da Ben-Gvir, ministro della polizia, e Smotrich, ministro delle finanze, e dall'altra l'establishment militare, che fino ad ora ha stabilito l'agenda brutale nei territori palestinesi. Ecco perché Netanyahu alla fine ha dovuto cedere, congelando la riforma, ma garantendo alla destra religiosa la possibilità di formare delle milizie fasciste facenti parte di una guardia nazionale. Insomma, lo scontro politico è tutto a destra e non per la democrazia. Nell'articolo dal titolo Per gli israeliani la pulizia etnica dei palestinesi va bene, ma la riforma giudiziaria è una linea rossa, pubblicato da Invicta Palestina, l'autore Mikko Peled fa il punto della situazione per quanto riguarda il ruolo dell'esercito nelle proteste antigovernative, di cui abbiamo accennato anche nel precedente articolo. Fino ad ora ci sono stati molti riservisti ed anche piloti dell'IDF, dell'esercito, che si sono rifiutati di presentarsi alle sessioni di volo settimanale, quelle di addestramento, per protestare contro la riforma giudiziaria. Nonostante Netanyahu abbia chiesto al capo di Stato Maggiore e ai capi delle forze di sicurezza di fermare il loro rifiuto, quello che più colpisce da parte di questi piloti è la consapevolezza di esercitare un loro legittimo diritto a protestare attraverso questo rifiuto, appunto, al che l'autore si chiede come mai non ritengono di fare altrettanto quando c'è da andare a bombardare e massacrare i palestinesi. È chiaro quindi che se Netanyahu fermerà questa riforma, le proteste si placheranno e tutto tornerà come prima. Torniamo alla rassegna stampa con altri tre articoli. Nell'articolo dal titolo Le piazze e l'occupazione, pubblicato da Jacobin, Chiara Cruciati, nel descrivere gli aspetti principali della riforma, elenca le iniquità del sistema giudiziario israeliano, cioè di come fino ad oggi sia stato complice, non contestando mai gli atti del potere occupante, seppure in evidente violazione del diritto internazionale, e nemmeno contestando la costruzione del muro di separazione, così come la costruzione di colonie in Cisgiordania, avallando poi ordini di espulsione e confisca delle terre, e mantenendo inoltre un doppio sistema giudiziario all'interno della Cisgiordania occupata, quello civile per gli israeliani e quello militare per i palestinesi. L'autrice quindi si chiede se sia possibile parlare di giustizia democratica, se questa sostiene la violazione sistematica dei principi del diritto internazionale. Ecco quindi perché non possiamo parlare, a proposito delle mobilitazioni di piazza, di una battaglia per la democrazia. Veniamo adesso ad una affermazione del ministro delle finanze israeliano, Smotrich, fatta durante una cerimonia in Francia, riportata da Michele Giorgio in un articolo sul manifesto dal titolo Da Golda Meir a Smotrich, i palestinesi non esistono, e che potete leggere anche sul sito di Amicizia Italo-Palestinese. Smotrich, che qualche settimana fa aveva esortato a spazzare via il villaggio di Hawara, dato poi alle fiamme dai coloni, è riuscito anche ad aprire una mezza crisi diplomatica con la Giordania, poiché quando ha detto che il popolo palestinese è una finzione elaborata un secolo fa per lottare contro il movimento sionista, lo ha fatto avendo alle spalle una mappa della Grande Israele con la Giordania parte del territorio dello Stato ebraico, proprio come appariva nella bandiera dell'Irgun, organizzazione terrorista ebraica fondata nel 1931. La nozione della non esistenza dei palestinesi non è nuova, è stata inventata dai sionisti progressisti giunti dall'Europa e serviva a legittimare il loro insediamento in Palestina. In seguito ripresa anche da Golda Meir, premier e leader laburista, che nel 1969 dichiarò che non esiste qualcosa come il popolo palestinese. Nell'ultimo articolo, che trovate suddiviso in due parti, dal titolo Intervista a Roger Waters, dare pari diritti umani ai palestinesi, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese, il grande artista, da sempre schierato con la causa palestinese, in una intervista rilasciata a Meron Mendel, direttore del Centro di Formazione Anna Frank di Francoforte, pubblicata sulla rivista Der Spiegel, parla, tra le altre cose, della sua decisione di far causa alla città di Francoforte, il cui magistrato della città ha cancellato in via straordinaria, per giusta causa, il concerto che avrebbe dovuto tenere durante il suo prossimo tour in Germania. Tutto questo perché da anni ormai Waters sostiene il movimento BDS. Waters, nel ribadire con forza la contrarietà all'occupazione israeliana e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini, compresi quelli dei palestinesi, costantemente violati, ricorda a Mendel che la sua decisione in passato di usare nei suoi concerti il maiale volante con la stella di David faceva parte della scelta di usare dogmi religiosi e simboli commerciali che rappresentano il dogma capitalista. Ma tra tutti questi simboli usati nei suoi spettacoli, solo la lobby israeliana si è lamentata. Nessun altro lo ha fatto. Waters conclude l'intervista con una riflessione che rappresenta forse la schizofrenia della situazione. Poiché da un lato viene invitato in Israele a tenere concerti che lui ovviamente boicotta, e dall'altra ci sono i tedeschi che gli vietano di suonare a Francoforte. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. Ma mother should have trusted the government. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Dopo la rassegna stampa a cura di Angela, ascoltiamo l'intervista di Pagine Esteri a Michele Giorgio da Gerusalemme. Un'ultima domanda: esiste, è presente oppure è totalmente assente nelle proteste la questione dei palestinesi? E purtroppo la questione palestinese in queste proteste è a dir poco marginale. Quando sono cominciate, dopo che si è insediato il governo Netanyahu, a fine di dicembre, quindi all'inizio di gennaio, effettivamente vari gruppi israeliani, quelli più attivi su questo fronte, erano riusciti ad essere molto presenti, anche molto visibili alle manifestazioni. Poi in realtà la protesta è stata dirotata da un'organizzazione che si chiama Per un governo onesto, per un governo democratico di Israele, e lì è diventata una protesta senza colore politico. Gli organizzatori ripetono che queste manifestazioni contro Netanyahu non sono né di destra né di sinistra, nemmeno di centro, sono semplicemente di cittadini che vogliono difendere la democrazia in Israele. E quindi la questione palestinese, sia dell'occupazione dei territori palestinesi che la condizione dei palestinesi in Israele, che si ritengono dei cittadini di serie B in questo ordinamento, non viene praticamente affrontata. Ed è per questo che i palestinesi di Israele non prendono parte, tranne pochissimi, a queste manifestazioni, nonostante potrebbero essere le vittime principali di questa riforma giudiziaria, che tende anche a ridurre o quantomeno a non riconoscere i diritti di minoranze. Quello che molti dicono tra coloro che sostengono l'idea che una battaglia per la democrazia vada fatta anche contro l'occupazione dei territori palestinesi è questo, cioè che non si deve parlare di riportare l'orologio indietro e quindi di ristabilire il vecchio ordine democratico israeliano, di Israele ebraico e democratico, ma invece di andare avanti verso un Israele che deve essere uno Stato democratico, ma per tutti, che deve includere tutti, quindi ebrei e arabi, essere uno Stato dove tutti sono in una condizione di completa uguaglianza in un sistema che naturalmente deve garantire diritti a tutti. Però questi temi, per la verità, rimangono molto in periferia rispetto ai temi centrali di questa protesta contro Netanyahu. Michele, io ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro buon lavoro. غنوة حلوة وغنوتي حلوة يا بلدي فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين ايه بون Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Ascoltiamo ora l'intervista al professor Enrico Bartolomei prima della sua relazione al convegno di Empoli. Buongiorno Palestina, siamo qui al Cenacolo degli Agostiniani a Empoli e stiamo per intervistare con delle brevi domande il professor Enrico Bartolomei. Li volevo chiedere, perché oggi è così importante analizzare il colonialismo di insediamento? Buongiorno, buonasera a tutti. Io credo che sia importante analizzare il colonialismo di insediamento perché è una prospettiva che si è affermata negli ultimi 20 anni a livello accademico, ma che era il modo in cui i palestinesi stessi e tutte le popolazioni indigene percepivano quello che testimoniavano direttamente, quindi lo spossessamento delle loro terre ad opera di coloni sostanzialmente venuti dall'Europa, dall'America. Questa prospettiva ci consente di mettere a confronto quello che succede in Palestina con altre esperienze di popoli nativi che hanno subito lo stesso tipo di colonizzazione e quindi riusciamo a togliere la Palestina da quell'aurea di eccezionalismo, no? Che il sionismo Israele ha sempre rivendicato e vedere in termini di paragone comparati quello che i palestinesi stanno subendo ora rispetto a quello che altri popoli nativi stanno subendo, e questa prospettiva ci consente appunto di fare delle analogie e delle differenze con altre esperienze e quindi di darci una prospettiva internazionale che è molto più lucida rispetto ad altre analisi che magari invece si basano sul conflitto etnico, sul conflitto religioso, addirittura qualcuno che sostiene lo scontro di civiltà o un conflitto diciamo motivato dall'antisemitismo. Ecco, uscendo da queste interpretazioni molto restrittive, la prospettiva del colonialismo di insediamento inquadra la questione palestinese all'interno di un più ampio respiro storico. Da parte mia, il pensiero politico contemporaneo arabo che ha sostenuto la resistenza e poi la resilienza palestinese può essere un fattore di soluzione del conflitto palestino-israeliano? Sicuramente, soprattutto quando nasce la resistenza diciamo palestinese dopo la guerra del 67, i palestinesi prendono nelle proprie mani il destino della liberazione che prima era in mano agli stati arabi, no? Che lo rivendicavano ma facevano ben poco a livello materiale per supportare la cosa palestinese. Dagli anni 60-70 in poi nascono tutta una serie di correnti che appunto insieme al movimento di resistenza palestinese sostengono che la prima fase della liberazione di tutto il mondo arabo dal colonialismo, dall'imperialismo europeo, in particolare statunitense e israeliano, deve essere la liberazione della Palestina. Quindi la liberazione della Palestina diventa il centro e la prima fase di quella che è la liberazione più larga del mondo arabo, sia dal colonialismo diretto, come ad esempio nel caso israeliano, sia dal neocolonialismo, cioè da tutte quelle forme di intervento delle potenze occidentali sostanzialmente nel Medio Oriente, che magari non implicano l'occupazione militare o altre forme molto più violente di occupazione, ma che comunque implicano ad esempio dei protettorati o l'instaurare rapporti con governi amici, penso alle monarchie del Golfo, eccetera eccetera. Quindi sicuramente sì. Ultima domanda, per la maggior parte dei giuristi l'applicazione del diritto internazionale viene considerato condizione base dei processi di mediazione per arrivare a degli accordi di pace. Al contrario, molti politici rivendicano il primato della politica sul diritto internazionale. Lei cosa ne pensa? Io penso che anche solo applicando la base, le risoluzioni principali del diritto internazionale, i diritti palestinesi troverebbero piena applicazione e quindi si troverebbe una giusta soluzione al conflitto palestinese. In particolare, qual è la grande differenza tra la retorica politica il grande tema che evita la retorica politica invece che è sancito dalle risoluzioni del diritto internazionale è il diritto al ritorno dei rifugiati, che è una questione che addirittura fu anche tolta dai temi dibattuti durante il cosiddetto processo di Oslo, processo di pace, ma che è centrale nella questione palestinese. Non dimentichiamo mai che i 2/3 del popolo palestinese è un popolo di rifugiati, e quindi cercare di trovare una soluzione alla questione palestinese senza riconoscere il diritto al ritorno o al ricollocamento per i rifugiati che volessero essere ricollocati in altri paesi è assolutamente impossibile. Beh, la ringraziamo. Grazie a voi. Adesso ascolteremo della conferenza. Grazie mille, arrivederci. Passiamo adesso ad ascoltare la relazione del professor Enrico Bartolomei al convegno di Empoli organizzato da Amicizia Italo-Palestinese. Ma chi è Enrico Bartolomei? Enrico Bartolomei si è laureato in relazioni internazionali all'Università di Perugia con una tesi sugli aspetti storici, storiografici e politici della questione dei rifugiati palestinesi. Dal 2008 ha effettuato periodi di ricerca sul campo nell'area MENA. Nel maggio del 2013 si è addottorato all'Università di Macerata con una tesi sul pensiero politico palestinese. I suoi interessi di ricerca sono orientati sul pensiero politico contemporaneo arabo, sulla storia del movimento di resistenza palestinese in particolare e in generale sul rapporto tra produzione del sapere ed esercizio della violenza. È coautore di varie pubblicazioni, tra cui il titolo è esclusi di una pubblicazione di un libro nel 2017 e un altro libro è Gaza e l'industria israeliana della violenza per l'editrice Derive e Approdi nel 2015. Ascoltiamo ora il professor Enrico Bartolomei. Per semplificare e rendere più esplicativa la relazione presentata dal professor Bartolomei, l'abbiamo divisa e ve la mandiamo in onda suddivisa in 4 parti, e a ciascuna delle quali abbiamo dato un titolo. Nella prima troverete i miti, nella seconda parte, dopo un breve brano musicale, le pratiche di espulsione e rimozione e concentramento, sempre riguardo al colonialismo di insediamento, che è l'argomento principale. Nel terzo caso, il caso statunitense, e nella quarta parte, che fare, cioè cosa si può fare per appunto sopperire a questa, al grosso problema appunto del colonialismo, e cosa si può fare in particolare in Palestina riguardo al colonialismo da insediamento. Buon ascolto. Ok, quello che voglio fare, provare a fare stasera è provare a farvi indossare un paio di occhiali nuovi, di lenti, che si chiamano colonialismo di insediamento, per capire insieme a voi se questo tipo di visione, di lettura di ciò che accade in Israele e Palestina ci consente di capire meglio quello che accade, quello che è accaduto e quello che potrà accadere in futuro. Per fare questo dobbiamo toglierci le lenti che spesso ci vengono propinate dalla narrazione sionista dominante e largamente accettate dai media internazionali, che a mio avviso hanno creato una serie di distorsioni nel modo in cui noi inquadriamo, leggiamo, interpretiamo la questione palestinese. Si parla spesso, ci si domanda spesso se siamo in presenza di uno scontro etnico tra arabi ed ebrei, di uno scontro religioso tra musulmani o ebrei, o se addirittura lo scontro è uno scontro di civiltà, no? Tra la civiltà occidentale e la barbare asiatica, e se è un conflitto senza fine che affonda le proprie radici nella notte dei tempi, se è innescato dall'odio razziale verso gli ebrei o dall'antisemitismo dei palestinesi, o spesso ci viene detto quello che accade in Palestina e in Israele è troppo complicato per capirlo, quindi lasciamo la parola agli esperti. se adottiamo questo tipo di visione del colonialismo e l'insediamento, che adesso vedremo di cosa si tratta, possiamo rispondere in maniera convincente a una domanda molto semplice, che è: che cosa accade in Palestina? E possiamo rispondere con tre parole: accade il sionismo. Se vogliamo, possiamo rispondere anche in una ventina di parole, non di più, che è la traduzione di cosa è il colonialismo e l'insediamento. In Palestina accade la rimozione della popolazione indigena nativa palestinese ad opera dei coloni sionisti e chiaramente dei loro discendenti, i quali rivendicano un uso esclusivo della terra. Punto. Con questa semplice frase noi riusciamo ad inquadrare quello che accade in Palestina. Adesso spiegheremo che cosa significa. Per capire quindi quello che accade è necessario capire cosa è il sionismo, e io cercherò di spiegare che il sionismo è uno dei tanti movimenti di colonialismo, di un particolare tipo di colonialismo, che è il colonialismo di insediamento, come ce ne sono molti altri nel mondo. L'intervento di questa sera, che provo a fare questa sera, è per far capire meglio come il sionismo non sia un evento unico ed eccezionale, ma sia comparabile ad altre esperienze storiche del colonialismo euroamericano, europeo e occidentale in generale, la metteremo a confronto il caso israeliano con il caso degli Stati Uniti. Che cos'è il colonialismo di insediamento? Allora, è un tipo di colonialismo il cui fine non è lo sfruttamento dei mercati, delle risorse, della manodopera locale, della manodopera indigena, come quello che potremmo definire colonialismo classico, il colonialismo commerciale, il colonialismo di sfruttamento che conosciamo tutti, ma l'appropriazione della terra e la sostituzione della popolazione nativa con una nuova società di coloni che arrivano dall'esterno, spesso dalla potenza coloniale, ma non solo. Nel colonialismo classico, quindi di sfruttamento, diciamo, la potenza coloniale conquista un territorio e assume il controllo del governo locale, dei mercati e delle risorse economiche, chiaramente, ma senza trasferire la popolazione. Pensiamo al caso della Gran Bretagna in India, o pensiamo al caso somalo, eritreo, nel caso italiano. La Libia è un caso a parte, perché è stato un caso di colonialismo di sfruttamento, ma a un certo punto noi abbiamo trasferito dei coloni italiani e quindi diventa poi un caso di colonialismo di insediamento, come vedremo. Un altro esempio ancora, prendiamo la Francia. In Tunisia si tratta di colonialismo di sfruttamento, si istituisce un protettorato, si controlla solo il governo, ma non si trasferiscono francesi lì, e quindi non si rivendica la terra vera e propria. Ma in Algeria è diverso il discorso, si tratta già di colonialismo di insediamento, si trasferiscono cittadini francesi che diventano chiaramente coloni, che hanno bisogno di terra, e a un certo punto loro stessi saranno essi stessi nativi, e comincerà un conflitto con gli indigeni, chiaramente, per il controllo della terra. Quindi lì si tratta di colonialismo di insediamento. Nel colonialismo classico la popolazione nativa è economicamente utile, per questo spesso l'opzione immediata non è l'eliminazione. La popolazione serve economicamente, spesso come manodopera a basso costo. Nel colonialismo di insediamento, invece, questa è la grandissima differenza, la popolazione nativa è un ostacolo, perché se tu trasferisci dei coloni e questi coloni poi vogliono creare uno stato nuovo sulla terra colonizzata, e da lì se ne devono andare i nativi. Non è la stessa cosa, appunto, dire alla popolazione indigena: tu lavora per me, nel caso del colonialismo di sfruttamento, quello che chiamo classico, oppure tu devi andartene. Nel primo caso opera appunto una logica di sfruttamento, nel secondo, come la chiamano gli studiosi, opera invece nei confronti della popolazione nativa una logica di eliminazione, cioè lì la popolazione nativa è un intralcio ai coloni per l'appropriazione della terra. Quindi colonialismo di sfruttamento, lavoro, nativi economicamente utili; colonialismo di insediamento, terra, nativi, un ostacolo al possesso della terra, eliminati. Poi vedremo quali sono le varie forme di eliminazione della popolazione nativa. E guardate, non stiamo parlando solamente di Israele, parliamo di Stati Uniti, parliamo di Canada, parliamo di Sudafrica, Nuova Zelanda, di tutti gli stati, con chiaramente situazioni storiche diverse, degli stati dell'America Latina, di tutte quelle esperienze dove dei coloni europei si sono spostati con l'intento di creare dei stati nuovi, governati dai bianchi, per capirci. Ora, questo tipo di analisi del sionismo e quindi di Israele come colonia di insediamento ci permette, è molto utile perché ci consente, come dicevo all'inizio, di mettere a confronto l'esperienza israeliana con altre esperienze di colonialismo e di insediamento europeo, appunto gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Sudafrica, per rimanere in area anglofona, rintracciando le analogie tra le pratiche di spossessamento dei nativi e anche le ideologie che l'hanno legittimate, cioè che i coloni hanno utilizzato per legittimare l'eliminazione della popolazione nativa. Il colonialismo e l'insediamento sionista in Palestina inizia relativamente tardi rispetto alle altre esperienze di colonialismo e l'insediamento, quindi alla fine dell'Ottocento. Pensate, alla fine dell'Ottocento già si era proceduti con la soluzione finale verso i nativi americani, quindi tutte le altre colonie di insediamento si erano già consolidate in nuovi stati. E gli stessi leader sionisti, mentre colonizzavano la Palestina alla fine dell'Ottocento, descrivevano la propria impresa come un'impresa coloniale. La banca che finanziava gli insediamenti si chiamava Bank of, for the Colonization of, Banca per la colonizzazione della Palestina. Le associazioni internazionali che aiutavano i coloni ad insediarsi si chiamavano Associazioni per la Colonizzazione della Palestina. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché oggi la gran parte della macchina propagandistica israeliana e non solo, no, degli amici di Israele nel mondo internazionale, opera per mascherare il fatto che Israele sia uno stato coloniale. Perché dagli anni 50 in poi non è più un vanto per le leadership sioniste dichiararsi un'impresa coloniale civilizzatrice delle popolazioni indigene selvagge. Dagli anni 50, il processo di decolonizzazione terzomondista eccetera, la parola colonialismo, razzismo comincia a diventare un po' malvista, per utilizzare un eufemismo, nelle opinioni pubbliche internazionali, ed ecco che quindi bisogna riadattare la narrazione, no? Quindi, no? Oggi si parla di più grande democrazia del Medio Oriente, eccetera, eccetera, ma le radici sono quelle, e lo vedremo bene adesso. Breve intervallo musicale, riprenderemo con la relazione del professor Bartolomei, che ci parlerà delle analogie con gli Stati Uniti. In particolare questa parte della relazione l'abbiamo intitolata I miti. cominciamo con rintracciare delle analogie tra quelle che sono le ideologie che gli israeliani e gli statunitensi hanno utilizzato, in poche parole, per far fuori la popolazione nativa. I coloni europei hanno adottato una serie di miti, di narrazioni. Il primo è il mito della terra vergine, cioè non abitata da europei, o della terra vacante, della terra vuota, il che significava sostanzialmente, o non posta, vuota, perché loro intendevano, non essendo sottoposto al metodo di coltivazione europeo, la terra era a disposizione di tutti, perché non contemplavano altri usi della terra, la proprietà collettiva, eccetera, eccetera. Per dare un fondamento giuridico a queste mitologie, all'appropriazione delle terre da parte dei primi coloni inglesi puritani, John Winthrop, che fu il giurista puritano, primo governatore della Baia del Massachusetts, elaborò la teoria del vacuum domicilium, secondo la quale i territori che non erano occupati in maniera permanente erano da considerarsi vacanti e potevano essere legittimamente occupati dai coloni europei. Analogamente, se ci pensiamo, i dirigenti sionisti propagandarono nel mondo occidentale l'idea che la Palestina era una terra senza un popolo, per un popolo senza terra, una terra senza un popolo, no? Immaginate la mente del colono che arriva, vede delle persone, non le riconosce come delle persone europee, quindi portatrici di un diritto personale, giuridico, no? La considera una terra vuota, appunto. Le persone native sono un po' al pari del paesaggio, degli alberi, degli animali, no? Un altro mito che ci consente di fare un paragone tra l'esperienza degli Stati Uniti e l'esperienza israeliana è la convinzione dei coloni di far parte di un popolo eletto. La nozione di popolo eletto, che è ripresa dal Vecchio Testamento, ricorre sia nella mitologia della colonizzazione puritana inglese negli Stati Uniti, che scappavano dalla chiesa cattolica corrotta, eccetera, eccetera, e approdavano alla terra di Canaan, la chiamavano la terra promessa, sia in quella sionista, chiaramente, in Palestina, e fungeva sia da ideologia di occupazione coloniale di quella che consideravano la terra che era promessa loro da Dio, in cui erigere una società nuova, sia da fondamento poi per la supremazia etnico-religiosa dei gruppi, degli eletti, dei coloni eletti, del popolo eletto. In particolare, se pensate nel caso statunitense, la teoria del popolo eletto, che per diritto divino o per provvidenza storica è destinato ad occupare una nuova terra, verrà poi declinata nell'ideologia del destino manifesto, cioè l'idea, appunto, che i coloni euroamericani avessero per necessità storica o divina l'obiettivo di colonizzare tutti gli Stati Uniti, quindi civilizzare i nativi americani. E poi, se ci pensate, anche in politica estera questa ideologia del destino manifesto verrà tradotta nelle varie politiche, la dottrina Monroe delle porte aperte, la dottrina del contenimento, fino ad arrivare alla dottrina preventiva e della guerra al terrorismo, che, se ci pensate, sancisce il diritto all'interventismo territoriale illimitato degli Stati Uniti in qualsiasi parte del mondo, senza riguardo per le norme internazionali, perché se tu sei un popolo eletto, depositario di una vicenda storica unica ed irripetibile, sei anche derogato dal seguire le norme internazionali. Se ci pensate, la stessa identica giustificazione accampata dai leader israeliani quando nelle varie operazioni militari violano costantemente il diritto internazionale. Beh, l'esperienza israeliana è unica, non è paragonabile a nessun'altra vicenda storica, in particolare le vicende del popolo ebraico, quindi siamo dispensati anche noi in via eccezionale da seguire le norme del diritto internazionale. Vedete, insomma, se si utilizza una logica comparata, come invece queste ideologie sono state utilizzate da entrambe le esperienze coloniali. Thank you. البشر عن بالخطر بتوحدوا وجه المرض والموت يا سهول يا تلال يا شباب شو هالحال كل البشر عن بالخطر بتوحدوا وجه المرض والموت أما الاحتلال صوت القتل والاعتقال أما الاحتلال صوت القتل والاعتقال صوت الهدم صوت الدمار يا سهول يا تلال يا شباب شو هالحال هيك الوفا بيكون كيف الورد خلى الأرض تضحك بكل الكون كيف الورد خلى الأرض تضحك بكل الكون يا سهول يا تلال يا شباب شو هالحال كيف الورد خلى الأرض تضحك بكل الكون امتى يا فلسطين يتحرر ولادك بتزين بيوتك بالفل والياسمين امتى يا فلسطين يتحرر ولادك بتزين بيوتك بالفل والياسمين يسقول يتلال. Passiamo ora alla seconda parte della relazione con le pratiche espulsione, rimozione e concentramento. Andiamo invece alle pratiche di eliminazione della popolazione nativa. Adesso abbiamo visto solamente un paio di esempi su come i coloni giustificavano il fatto che stessero colonizzando territori e popolazioni di un altro paese. Quando io dico logica di eliminazione non dobbiamo solamente pensare all'eliminazione fisica, quindi alla pulizia etnica o al genocidio, ma ad altri tipi di eliminazione. Quando ad esempio nel nuovo ordinamento politico che formano i coloni, questi i coloni non sono riusciti ad ottenere la superiorità demografica, come mantengono il dominio? Mantengono il dominio tramite la separazione tra nativi e altri gruppi subalterni, cioè attraverso la politica dell'apartheid. In questa tipologia, ad esempio, rientra il Sudafrica ed Israele. Quindi i coloni sono una minoranza e mantengono la separazione attraverso l'apartheid. Se i coloni invece rappresentano la maggioranza, e quindi pensiamo agli Stati Uniti, al Canada, all'Australia, ma anche all'Argentina, al Brasile, al Cile, per tutti i paesi dell'area dell'America Latina, la logica di eliminazione dei nativi, cioè come mi libero dai nativi, nel primo caso separandoli, segregandoli, in quest'altro caso, quindi quando i coloni e i discendenti chiaramente sono la maggioranza, dei nativi che rimangono, la logica di eliminazione opera attraverso l'assimilazione dei pochi nativi che restano o attraverso l'inclusione in posizione subordinata all'interno del nuovo Stato che si forma. Vediamo un attimo come opera questa logica di eliminazione nel caso sionista e nel caso statunitense in particolare. Allora, il sionismo si è sempre ispirato a un principio fondamentale che è ottenere il massimo della terra col minimo di palestinesi al suo interno. Questo principio nel caso palestinese ha assunto due forme fondamentali, l'espulsione e il concentramento, e la concentrazione dei palestinesi nel minor spazio possibile. Vediamo l'espulsione, parlo di espulsione fisica, di rimozione fisica della popolazione nativa dal territorio, chiaramente lo scopo l'abbiamo capito è l'appropriazione della terra, no? Ad uso esclusivo dei coloni. Nel caso palestinese due sono le date eclatanti, il processo di espulsione chiaramente inizia subito, fin dalle prime colonie della fine dell'Ottocento, però non in grandissime quantità. Per citare appunto due date in cui l'espulsione assume forme pianificate a tavolino e di massa, chiaramente tutti conoscerete il 1948, che è la data dell'espulsione di tra le 750.000 e 1 milione di palestinesi, su un totale di 1 milione e 2 circa di palestinesi, quindi la gran parte dei palestinesi della Palestina viene forzatamente espulsa dalla Palestina sotto il controllo inglese, quindi dalla Palestina mandataria. Un'altra data di espulsione di massa, in cui oltre 300.000 nuovi palestinesi vengono espulsi dalla Palestina storica nel 1967. Chiaramente anche oggi le politiche di espulsione continuano, ma le condizioni storiche sono diverse, quindi si parla di pulizia etnica silenziosa, che riguarda i minori numeri, no? e aree circoscritte. Se pensate, possiamo pensare a Sheikh Jarrah, Silvano, alcuni quartieri di Gerusalemme Est, eccetera, eccetera. Quindi pulizia etnica silenziosa. La seconda modalità di espulsione dei nativi, il concentramento. Fin dall'inizio della colonizzazione sionista in Palestina si crearono delle colonie fortezza in cui, che avevano il duplice scopo di creare una colonia di insediamento pura, quindi fin dall'inizio l'obiettivo era di creare un'economia esclusivamente ebraica, una società esclusivamente ebraica, insediamenti urbani esclusivamente ebraici, da cui i palestinesi venivano immediatamente espulsi. Poi chiaramente dopo la pulizia etnica del 48, Israele, avendo espulso la maggior parte dei palestinesi, si trova però a dover gestire quei pochi palestinesi che erano rimasti all'interno dei confini della linea verde del 1967, non quello che secondo il diritto internazionale è lo Stato legittimo di Israele. E che misura adotta chiaramente? Adotta la politica della concentrazione, un regime militare istituzionalizzato di segregazione in cui i palestinesi non possono muoversi al di fuori delle proprie zone urbane, che vengono circondate da città e infrastrutture coloniali ebraiche per bloccarne l'espansione. Nel 67 ulteriore espansione territoriale israeliana, quindi occupazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza, altra rimozione di massa di palestinesi, però a questo punto il problema è più grande. Perché gli israeliani si trovano a incamerare una grande quantità di terra, certamente, ma con all'interno un numero più grande di palestinesi. E se nel caso dei palestinesi del 48 a un certo punto avevano anche pensato a mettere in atto una politica di assimilazione dei pochi rimasti, dando la cittadinanza ai palestinesi del 48, benché con moltissime forme di discriminazione, eccetera, eccetera, nel caso del 67, con milioni di palestinesi dentro la Cisgiordania e la striscia di Gaza, non potevano più assimilarli, altrimenti veniva meno il principio della maggioranza ebraica. E quindi come hanno risolto il problema di avere tutta questa quantità di terra, ma concentrando i palestinesi nel minor spazio possibile, adottando la politica dell'apartheid. Dal 67 il principio sionista del massimo della terra col minimo dei palestinesi non si realizza più attraverso l'espulsione e la rimozione forzata, ma si realizza attraverso la politica del concentrare i palestinesi nel minor spazio possibile e relegando all'autorità nazionale palestinese il compito di gestire la vita quotidiana dei palestinesi che stanno all'interno di queste riserve, di questi Bantustan. Gaza, chiaramente, la striscia di Gaza è il simbolo vivente di questa politica, no? Se ci pensate, una striscia lunga una quarantina di chilometri, larga una decina di chilometri, in cui vivono quasi 2 milioni di persone, è proprio la realizzazione storica del principio del tenere il maggior numero di palestinesi nel minor spazio possibile, quando non è possibile rimuoverli. Sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton Ulube sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton Kaumbena, kaumbena, kaumbena. كلم في لا سبانا نندرو وروولون في لا شيري كننتم قلوب سان كلم في لا سبانا نندرو وروولون في لا شيري كننتم Passiamo ora alla terza parte della relazione del professor Bartolomei dal titolo Il caso statunitense, che comprende espulsione, concentramento e assimilazione. Vediamo il caso statunitense. Riconducibili principalmente a tre categorie. Se nel caso palestinese era espulsione, quindi la rimozione forzata dalla terra, e il concentramento, nel caso statunitense almeno ne va aggiunta una inedita che non abbiamo sostanzialmente nel caso palestinese, che è le politiche di assimilazione, come vedremo. Cominciamo con il genocidio. Un'altra cosa che contraddistingue il caso statunitense rispetto a quello palestinese è che la violenza coloniale ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio genocidio senza precedenti, no? Con la conquista del selvaggio West nel 1890, in tutto il Nord America rimanevano in vita appena 250.000 nativi, e pensate che 4 secoli prima ne erano 12 milioni. Quindi nel caso statunitense, diversamente dal caso sionista, che ha prediletto l'espulsione fisica, uno dei principali mezzi di eliminazione della popolazione nativa è stata l'eliminazione fisica, vera e propria, il genocidio. Quindi il genocidio. Un'altra modalità è la rimozione forzata, che abbiamo visto anche nel caso palestinese. Nel caso statunitense la politica di deportazione di massa fu inaugurata nel 1830 con l'approvazione di quello che è chiamato la legge sulla rimozione degli indiani, l'Indian Removal Act, voluta da Jackson, dal presidente Jackson, che senza dubbio costituì uno degli atti di pulizia etnica su larga scala maggiori nei confronti dei nativi americani, in cui quasi 50.000 nativi furono costretti ad abbandonare le loro case e trasferirsi nel cosiddetto territorio indiano, chiaramente a est del fiume Mississippi. Chiaramente l'obiettivo era liberare quelle enormi vastità di terra in cui che oggi sono gli stati di Georgia, Florida, Carolina del Nord, Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas, alla colonizzazione rampante, no? Che arrivava dall'Europa. Se pensate a cosa ha significato la rimozione forzata dei nativi, perché chiaramente tutti i nativi che rifiutavano il trasferimento volontario, perché, no? Che veniva proposto dal governo federale, venivano forzatamente accompagnati in lunghissime marce in cui moltissimi purtroppo perivano. Un esempio è la rimozione della nazione dei Cherokee, che era formata da circa 12.000 persone, che in una lunghissima marcia che è nota come il Sentiero delle Lacrime, The Trail of Tears, circa un terzo dell'intera nazione Cherokee venne sterminata lungo il percorso, no? per fame, per freddo e per stenti. E non possiamo non pensare anche alle lunghe marce che facevano i rifugiati palestinesi nel 48, no? Verso il Libano, verso la Giordania, verso l'Egitto, anche qui scortati militarmente da militari sionisti, no? Per cacciare dalle proprie terre. Un'altra ulteriore modalità di eliminazione dei nativi nel caso statunitense, quindi abbiamo visto il genocidio, abbiamo visto la rimozione forzata, vediamo il concentramento, quindi come nel caso palestinese, no? Anche qui l'obiettivo è concentrare il maggior numero possibile di nativi nella minore quantità di terra, e questo è stato fatto come molti di voi sapranno, creando il sistema delle riserve indiane, che appunto fu concepito come mezzo per circoscrivere la presenza di tutte queste popolazioni che furono espulse, che venivano espulse man mano che i coloni avanzavano, nel minor spazio possibile. E la gestione degli affari interni delle riserve, anche qui con un triste parallelo alla questione palestinese, è stato gestito in parte anche, no, dal cosiddetto Bureau of Indian Affairs, no, l'ufficio per affari indiani, che è una sorta di autorità nazionale palestinese del caso statunitense, che si occupa di gestire i bisogni fondamentali e garantire i mezzi di sussistenza alle comunità native che sono state chiuse nelle riserve indiane. Oltre alla minaccia militare, uno dei mezzi che furono impiegati dal governo statunitense per forzare le comunità native ad andare nelle riserve fu una vera e propria guerra ecologica che portò alla distruzione quasi totale delle mandrie di bisonti, che erano una delle principali fonti di sussistenza, in particolare delle tribù delle grandi pianure, pensate alla Lakota Sioux. E anche qui pensate al parallelismo con la distruzione, quindi guerra ecologica, si combatte non solo, si cerca non solo di espellere i nativi e di concentrarli, ma anche di distruggere l'ambiente, le fonti, i mezzi di sussistenza delle popolazioni per indurle ad andarsene, no? Quindi per chi è stato in Palestina sicuramente sa della distruzione di interi campi ed ettari di piante d'olivo, no? Pensate al simbolismo, no? Tra la distruzione delle mandrie di bisonti e degli alberi d'olivo, le principali fonti di sostentamento, no? delle due diverse popolazioni, quindi esperienze storiche diverse ma mezzi molto simili di spoliazione delle popolazioni native. Allora, una differenza tra il caso statunitense e quello sionista, come vi dicevo, sono invece le politiche di assimilazione. Con la soppressione definitiva della resistenza nativa nel 1890, quindi con il grande massacro di Wounded Knee, quindi l'uccisione di Toro Seduto e quindi tutta la rivolta dei Sioux che si erano rifiutati di andare volontariamente nelle riserve, che vengono appunto decimati militarmente, la logica di eliminazione negli Stati Uniti si traduce nell'assimilazione, quindi in un grande sforzo di assimilare i nativi all'interno della nuova società statunitense, inglobandoli il più possibile nella cultura dominante dei coloni euroamericani. Ci sono stati diversi modi per assimilare i nativi americani, il primo attraverso le leggi, diciamo così, quindi tutta una serie di provvedimenti legislativi che a un certo punto imponevano la parcellizzazione e la privatizzazione delle terre indigene che venivano poste sotto il controllo del governo federale e che avevano l'obiettivo di sfaldare le tradizioni culturali e l'unità sociale delle popolazioni native, legando la propria sopravvivenza all'economia governativa. Quindi l'ufficio degli affari indiani, avendo privato le popolazioni native di tutti i mezzi di sussistenza, avendo venduto e parcellizzato le proprie terre, no, dovevano trasformare le comunità native in individui proprietari, no, come erano i coloni bianchi, ecco che vengono create queste agenzie federali che devono provvedere al sostentamento, a provvedere agli aiuti alimentari, sanitari delle popolazioni native. Se ci fate caso, anche gran parte dell'economia palestinese dagli anni 80, dagli anni 90 in poi si regge sui sussidi dei donatori internazionali che tramite l'autorità nazionale palestinese poi vengono elargiti alla popolazione palestinese, che in gran parte è stata privata dei propri mezzi di sussistenza. Il caso più eclatante è la striscia di Gaza, in cui non esistono praticamente mezzi di sussistenza e l'intera vita si regge sulla benevolenza dei donatori internazionali. Un altro mezzo di assimilazione è l'assimilazione attraverso l'educazione. Negli Stati Uniti vennero istituite le cosiddette boarding schools, che erano delle scuole di rieducazione forzata delle popolazioni native alla cultura statunitense e per decenni hanno ospitato centinaia di migliaia di bambini nativi in età scolare, e l'obiettivo chiaramente era privarli della loro identità indigena e assimilarli alla società statunitense. Venivano proibito indossare gli abiti tradizionali, parlare la propria lingua, officiare i propri riti religiosi, eccetera, tagliare i capelli, pensate al rito del taglio dei capelli, che era un simbolo di fierezza, no? per moltissime popolazioni native. E addirittura c'era il rito del cambio del nome: quando si entrava in queste scuole di rieducazione forzata, i bambini nativi erano costretti a scegliersi, o gli veniva imposto, qualora non scegliessero, un nome da bianchi, no? Come proprio a testimoniare il radicale cambio di vita. Lo slogan delle autorità federali era «Kill the Indian, save the man», uccidi l'indiano e loro, ma salva l'uomo. E, se pensate, no, un fatto di cronaca recente, le scuse del pontefice in Canada, in questo caso, perché anche in Canada sono state istituite queste boarding school, scuole di rieducazione forzata, è proprio relativo a il fatto che la percentuale di nativi che morivano, di bambini che morivano in queste scuole era altissima, e quindi negli ultimi anni si stanno scoprendo queste fosse comuni vicino a queste scuole di rieducazione. E quindi ecco, mi raggancio a un fatto di cronaca che insomma è finito anche nei TG nazionali, no? Siamo arrivati all'ultima, alla quarta e ultima parte della relazione del professor Enrico Bartolomei, dal titolo Che fare? Per motivi di spazio ci limitiamo a riportare di questa parte della conferenza solo le considerazioni che riguardano la Palestina. Ora, dopo aver visto in termini comparativi come i coloni europei negli Stati Uniti e i coloni europei in Palestina hanno legittimato il proprio dominio sulle popolazioni native e dopo aver visto come hanno portato a termine i propri progetti di spossessamento dei nativi e di appropriazione della propria terra, chiediamoci che fare. Quali prospettive di autodeterminazione e di liberazione possiamo pensare per le popolazioni vittime del colonialismo e l'insediamento? Quindi abbiamo capito che gli strumenti tradizionali della risoluzione dei conflitti tra stati risultano inefficaci nei casi di colonialismo e di insediamento, perché non intaccano l'ideologia e la struttura dello stato coloniale. Il rimedio per il colonialismo e l'insediamento non è la coesistenza o il compromesso territoriale fra le parti, il rimedio è la decolonizzazione. E allora vediamo un po' che cosa può significare decolonizzazione nel caso palestinese e decolonizzazione nel caso statunitense. E poi chiudo. Vediamo brevemente che cosa può significare invece decolonizzazione nel contesto palestinese. Andiamo veloci, così lasciamo un po' di spazio magari a delle considerazioni, a un dibattito. Significa, secondo me, una cosa molto semplice, che poi può essere declinata politicamente in vari modi, ma che sostanzialmente è uguali diritti a tutti coloro che vivono nell'intero territorio della Palestina storica, quindi quello che oggi è Israele e territori palestinesi occupati, e a tutti coloro che ne sono stati espulsi. E questo può essere fatto, a mio avviso, recuperando un vecchio slogan dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, attraverso la creazione di uno Stato unico, in cui non ci siano distinzioni basate su nazionalità, razza, religione, ma in cui ogni singola persona abbia pari diritti e doveri in quanto cittadino. Inclusi, e questa è una condizione fondamentale chiaramente, i palestinesi che sono stati espulsi dalla Palestina. Poi chiaramente capite che questo significherebbe appunto che a dirla così sembra una rivendicazione banale, no? Uguali parità e diritti di cittadinanza a tutti, ma significa minare la supremazia ebraica dello Stato israeliano, il fondamento su cui si basa lo Stato israeliano, no? Che è l'uso esclusivo della terra di Palestina, che per il 93% è riservato esclusivamente agli ebrei per legge, e anche qui per legge la maggioranza ebraica dello Stato israeliano. E quindi si può cominciare intanto a lavorare verso questo obiettivo, quello che possiamo fare anche noi attivisti, lavorando al riconoscimento dell'ingiustizia storica inflitta ai palestinesi, e quindi invece di unirci chiaramente alle celebrazioni del giorno dell'indipendenza, lavorare per istituire una giornata della memoria della catastrofe palestinese del 1948. E questo lo dico perché appunto con la retorica dei due popoli, due stati, molto spesso anche noi attivisti siamo portati a pensare che il conflitto in Palestina sia cominciato nel 1967 con l'occupazione di Cisgiordania e Striscia di Gaza, e invece tendiamo a dimenticare, a non dare il peso che merita a invece quella che è la radice della questione palestinese, la pulizia etnica del 1948. Il 30 marzo i palestinesi commemorano il 47° anniversario della Giornata della Terra, riaffermando il loro legame indissolubile con la terra della Palestina storica, nonostante le numerose sfide che devono affrontare per resistere alle continue politiche di sfollamento da parte di Israele. Quest'anno la commemorazione dell'End Day avviene mentre il principio sionista di più terra con meno arabi viene applicato in piena luce. Il governo israeliano continua le sue politiche di confisca, demolizione di case e sfollamento, adducendo